Sesto canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, sesto canto. Quando si parte il gioco della zara, colui che perde si rimando lente, ripetendo le volte, e tristo impara. Con l'altro se ne va tutta la gente, qual va dinanzi e qual di dietro il prende, e qual dal lato li si reca a mente. El non s'arresta, e questo e quello intende, a cui porge la man più non fa pressa, e così dalla calca si difende. Tal era io in quella turba spessa, volgendo a loro e qua e là la faccia, e promettendo mi sciogliea da essa. Qui v'era l'aretin che dalle braccia fiere di ghindi tacco ebbe la morte, e l'altro ch'annegò correndo in caccia. Qui vi pregava con le mani sporte Federigo Novello e quel da Pisa, che fe parer lo buon Marzucco forte. Vidi Conte Orso e l'anima divisa dal corpo suo per astio e per inveggia, com'ei dicea, non per colpa commisa. Pier dalla Brocca, dico, e qui proveggia, mentre di qua, la donna di Brabante, sì che però non sia di peggior greggia. Come libero fui da tutte quante quell'ombre che pregar pur ch'altri prieghi, sì che s'avacci lor divenir sante, io cominciai, e il par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo che decreto del cielo orazion pieghi. E questa gente prega pur di questo, sarebbe dunque loro speme vana, o non m'è il detto tuo ben manifesto? Ed egli a me, la mia scrittura è piana, e la speranza di costor non falla, se ben si guarda con la mente sana, che cima di giudicio non s'avvalla, perché foco d'amor compia in un punto ciò che dee soddisfar chi qui s'astalla. E là dov'io fermai cotesto punto non s'ammendava per pregar difetto, perché il priego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto non ti fermar, se quella nol ti dice che lume fia tra il vero e lo intelletto. Non so se intendi, io dico di Beatrice. Tu la vedrai di sopra, in su la vetta di questo monte, ridere e felice. E io, Signore, andiamo a maggior fretta, che già non m'affatico come dianzi, e vedi omai che il poggio l'ombra getta. Noi anderem con questo giorno innanzi, rispuose, quanto più potremo omai, ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sie lassù, tornar vedrai colui che già si cuopre della costa, sì che i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima che, posta sola soletta, in verso noi riguarda. Quella ne insegnerà la via più tosta. Venimmo a lei. O anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel mover degli occhi onesta e tarda. Ella non ci dicea alcuna cosa, ma lasciavane gir solo sguardando a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita, e quella non rispuose al suo dimando, ma di nostro paese e della vita c'inchiese. E il dolce duca incominciava Mantua, e l'ombra tutta in sé romita surse ver lui del loco ove pria stava, dicendo: o Mantoano, Io son sordello della tua terra. E l'un l'altro abbracciava. Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei ch'un muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno s'alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano se la sella è vuota? Sanz'esso fora la vergogna meno. Ahi, gente, che dovresti esser devota e lasciar seder Cesare in la sella, sebbene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come esta fiera è fatta fella per non esser corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella. O Alberto tedesco, ch'abbandoni costei che è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcar li suoi arcioni. Giusto giudicio dalle stelle caggia sovra il tuo sangue e sia novo e aperto, tal che il tuo successor temenza n'aggia. C'avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti, che il giardin dello imperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vien, crudel, vieni e vedi la pressura di tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior com'è oscura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, vedova e sola, e dì e notte chiama, Cesare mio, perché non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama. E se licito m'è, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crucifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazion che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene, in tutto dell'accorger nostro scisso? Che le città d'Italia tutte piene son di tiranni, e un Marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi esser contenta di questa digression che non ti tocca, mercè del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popol tuo l'ha in sommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco, ma il popol tuo solicito risponde senza chiamare, e grida, i mi sobbarco. Or ti fa lieta, che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace e tu con senno. S'io dico il ver, l'effetto nol nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l'antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, ch'a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre, legge, moneta, ufficio e costume, hai tu mutato e rinnovate membre. e se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in su le piume, ma con dar volta suo dolore scherma. Fine del sesto canto del Purgatorio.